con ogni mio pensier vorrei seguir. Chi se ne va tanto lontano, luna, con una algerina, illumina il palmetto sulla collina, e tanto triste il cuore senza amore. Baciami tu, baciami tu, oh luna, luna africana, si perde nella notte la carovana, sapessi che dolore nel mio cuore. Baciami tu, baciami tu, mai più tra le mie braccia la mia bimba stringerò, mai più nei tuoi respiri amore baci sentirò. Tanto triste il cuore senza amore.